Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Eccoci ad un nuovo appuntamento con So Info, che ogni settimana vi accompagna con informazioni e consigli pratici sui temi della salute attraverso uno sguardo plurale, il punto di vista della donna, delle bambine e dei bambini. Oggi parliamo del difficile compito di essere madri e padri. In che modo le aziende ULS della provincia di Treviso ci accompagnano e sostengono in questo? La struttura di riferimento è il consultorio familiare, dove gli operatori offrono consulenze, sostegno e terapie in caso di difficoltà nella gestione della genitorialità, con una particolare attenzione alla neogenitorialità. Ascoltiamo Jorge Luis Del Re, direttore del consultorio familiare di Treviso. Il consultorio familiare per la neogenitorialità offre una varietà di interventi a favore appunto dei neogenitori, delle giovani mamme e dei giovani papà. Allora, diciamo che è un servizio che storicamente ha dedicato molta attenzione a questa fascia d'età e a questo momento così importante del ciclo vitale di una famiglia. Ora, in particolare, vengono proposti incontri di gruppo con neogenitori in cui vengono trattati molti argomenti, tra i quali la cura del bambino, l'allattamento, le fasi della crescita, le vaccinazioni e quanti altri argomenti possono essere di interesse del gruppo. È previsto nelle prime settimane di vita del bambino una visita ostetrica a domicilio da parte delle ostetriche e dei consultori che verificano lo stato di salute, ma sono lì soprattutto per dare consigli, indicazioni per sostenere le mamme in caso di difficoltà. Ci sono poi varie possibilità di consulenza, in primo tra tutto quello che viene dato alle mamme se ci sono problemi riferiti all'allattamento o qualsiasi altro argomento che può riguardare la cura e la crescita del bambino. C'è poi la possibilità di rivolgersi agli psicologi del consultorio per consulenze che riguardano sia le proprie difficoltà come genitori che eventuali difficoltà anche così precoci nella relazione con il bambino. Poi, per parlare delle cose diciamo più specialistiche, un po' per fortuna più rare, c'è anche tutto un progetto che è sviluppato assieme ai servizi per la salute mentale sulla depressione postpartum, che prevede sia l'individuazione precoce delle situazioni a rischio, ma sia la presa in carico e quindi eventualmente anche la terapia delle situazioni in cui la depressione postpartum si sviluppa. I neogenitori al primo figlio sono generalmente molto più presenti in queste attività, perché ovviamente essendo la prima esperienza hanno molti quesiti in più da porre. Diciamo che la presenza prevalente da parte delle mamme, anche perché le difficoltà dei padri spesso legate all'attività lavorativa. Comunque le domande più frequenti si riferiscono soprattutto alla relazione tra mamma e bambino, all'allattamento, ma argomenti che generalmente sono il sonno, l'educazione che si può dare al bambino. Ecco, i padri in particolare pongono più domande rispetto agli aspetti educativi. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.